Restauro mobili inizialmente, adesso però ho visto un po' la crisi come tutti, mi sono trasformato un po' l'artigiano tutto legno, insomma, dal restauro ormai il restauro è diventato anche un po' il recupero delle cose fatte 30 anni fa, magari non antiche, ma sempre legno da recuperare, insomma, ecco. Sostanzialmente il recupero, insomma, ecco, del lavoro, del legno, ecco, quello che è imposte, dai portoni, imposte, i mobili, tutto quello che è da recuperare, insomma. Non, anche il recupero del legname che faccio io, di tutti i pavimenti che recupero nei palazzi, è un bel esempio per il recupero, no? Non tagli alberi, fai dei mobili con una storia dietro, insomma, ecco, una patina diversa del legno e tutta un'altra atmosfera, ecco. Quello è il mio lavoro in pratica. Dopo si trasforma man mano che va avanti il tempo, perché la necessità è quella, insomma. Borgo è bello, è uno dei bei borghi. Vedo quando viene gente da fuori, specialmente in città grosse, vedono il borgo come ancora il borgo che noi non vediamo più, insomma, una cosa molto più intima, più bella. Forse è nato prima di Rovereto, dunque quello anche il bello, insomma, che uno non lo conosce se da fuori. Conosce il centro di Rovereto, ma il centro di Sacco no. Poi è bello perché quando entri nei centri trovi sempre qualcosa di nuovo. Dietro i palazzi sono i cortili, ci sono le entrate e le uscite, come quando c'era i contrabbandieri, c'era l'entrata di una casa e l'uscita dall'altra. Tutto un po' strano questo paese. È affascinante, insomma. A me piace perché qua non è il massimo come laboratorio, però secondo me trasmette qualcosa. Se non è il capannone nuovo che per il mio lavoro. Anche se bisogna, insomma, sei un po' costretto a stare negli spazi che trovi, insomma, ecco. No, il commercio è finito, cioè il commercio è proprio al basso, peggio di così non è mai stato, anche perché secondo me si è persa di cultura, cioè l'antichità non la apprezzi più, c'è poca storia dietro, adesso non insegnano più, non dico arredare tutto antico perché negli appartamenti nuovi non starebbe neanche bene, solo nel palazzo, però un oggettino particolare ci vuole, insomma. Non so, fa parte di te, no? Del tuo. Purtroppo stiamo perdendo quello, ecco. Io mi sono trasformato, ho fatto anche dei mobili con legno vecchio, con l'acciaio, cioè ho fatto un po' di tutto, insomma. Cerco di fare un po' di tutto. Cerco di lavorare la ceramica assieme al legno, l'acciaio assieme al legno, e dopo disegno io e faccio io, insomma, cerco gli arti artigiani, sarebbe bello unire quattro artigiani, quattro materiali diversi e creare un design nuovo, qualcosa di particolare sempre, no? È che i costi sono sempre di più e poi mettere assieme artigiani tirati come adesso è sempre un problema. Cioè, una volta lo facevi nel buco di tempo, adesso non è che non c'è lavoro, devi correre per trovarlo, dunque è differente, no? Cioè, una volta uno aveva il suo spazio, il suo guadagno, adesso mi dedico una mezza giornata per me perché ho guadagnato questa settimana, sono a posto, metti, no? Il budget, ci è arrivato il budget, mentre adesso sei sempre fuori budget, devi sempre, c'è la rincorsa, se non abbassano i costi qua non manca, la creatività ti viene nella necessità, una passione, però necessità c'è di qualcosa che cioè, uno te la chiede, dunque fai qualcosa di non tuo proprio da dentro, no? Non viene da te. Se avessi spazi per te e tranquillità, fai qualcosa che piace a te, anche la passione proprio. Lì viene fuori la creatività tua. Mentre la creatività adesso è quasi obbligatoria per vendere. L'artigiano, discorso delle mostre, è diventato artista, nel senso deve lavorare sempre di più, inventarsi sempre di più. Invece l'artista è già arrivato, lui si ferma lì perché l'artista ormai vive di rendita se ha trovato l'oggetto giusto, però ha paura di spostarsi, se no morirebbe magari. Capito? Allora è un po' strano il discorso, no? Però è così la realtà di adesso. Però io non sono del paese, però ho visto che la gente, insomma, a parte è diventato un po' quasi. Prima c'erano tutti i negozietti sotto, no? Ogni casa due o tre negozietti, adesso non c'è più niente. Addirittura è diventato un po' più che altro abitazioni e basta. Difatti vedi che tanti avevano un negozio e lo trasformano in garage. Diventa proprio ormai un po' un ricovero, insomma, tra virgolette. Bello da vivere, però poca vita per i giovani, secondo me, ecco. Anche se in piazza ci sono quattro bar. Però lì è perché anche c'è il passaggio da ciclabile e lì c'è un flusso di da matti, insomma, di gente che viene, si ferma, fa la tappa qua a Sacco, poi vanno giù nel lago di Garda. Per fortuna c'è quello, insomma, per diciamo, l'economia di sacco, se no è più un dormitorio, bello, però è trasformato in case, basta, insomma. I costetti, come ripeto, se sono piccoli, chiudono.